Con questo vi salutiamo, grazie di nuovo per essere stati questa notte. Lasciamo spazio ai weekend. Prezzo dell'anima. Dentro della mia anima.